Sezione ottava della Divina Commedia, Il Paradiso, di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ottavo. Solea creder lo mondo in suo periclo che la bella ciprigna il folle amore raggiasse volta nel terzo epiciclo. Perché non pure a lei faceano onore di sacrificio e di votivo grido le genti antiche nell'antico errore, ma Dione onoravano e Cupido, quella per madre sua, questo per figlio, e dicean che i sedette in grembo a Dido ed a costei, ond'io principio piglio, pigliavano il vocabol della stella, che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio. Io non m'accorsi del salir in ella, ma d'esser ventro mi fece assai fede la donna mia, ch'io vidi far più bella. E come in fiamma favilla si vede, e come in voce, voce si discerne, quando una è ferma e l'altra va e riede, vid'io in essa luce altre lucerne muoversi in giro, più e men correnti, al modo, credo, di lor viste eterne. Di fredda nube non discesero venti o visibili o no, tanto festini che non paressero impediti e lenti a che avesse quei lumi divini veduto a noi venir, lasciando il giro pria cominciato in gli alti serafini. E dietro a quei che più innanzi appariro sonava osanna sì che unque poi di riudir non fui senza disiro. Indi si fece l'un più presso a noi e solo incominciò: tutti sem presti al tuo piacer perché di noi ti gioi. Noi ci volgiam co principi celesti d'un giro ed un girare ed una sete a quali tu nel mondo già dicesti. Voi che intendendo il terzo ciel movete, e sem si pien d'amor che per piacerti non fia men dolce un poco di quiete. Poscia che gli occhi miei si fur offerti alla mia donna riverenti, ed essa fatti gli avea di sé contenti e certi, rivolsersi alla luce che promessa tanto s'avea, e di chi sei tu? Fu la mia voce di grande affetto impressa. O quanta e quale vid'io lei far piue per allegrezza nuova che s'accrebbe quando io parlai all'allegrezze sue. Così fatta mi disse: il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato molto sarà di mal che non sarebbe. La mia Letizia mi ti tien celato, e mi raggia d'intorno e mi nasconde, quasi animal di sua seta fasciato. Assai m'amasti, ed avesti bene onde, che se io fossi giù stato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva, che si lava di Rodano, poiché misto con sorga, per suo signore a tempo m'aspettava. E quel corno d'Ausonia, che s'imborga di Bari, di Gaeta e di Crotona, da onde Tronto e verde in mare sgorga. Fulgeami già in fronte la corona di quella terra che il Danubio riga, poi che le ripe tedesche abbandona. E la bella Trinacria, che caliga tra Pachino e Peloro sopra il golfo, che riceve da Euro maggior briga, non per Tifeo, ma per nascente solfo, attesi avrebbe di suoi regi ancora, nati per me di Carlo e di Ridolfo. Se ma la signoria, che sempre a cuore li popoli soggetti non avesse mosso Palermo a gridar, mora, mora, e se mio frate questo antivedesse, la vara povertà di Catalogna già fuggiria perché non gli offendesse, che veramente provveder bisogna per lui o per altrui, sì ch'a sua barca carica più di carco non si pogna. La sua natura, che di larga parca discese, avria mestier di tal milizia che non curasse di metter in arca. Perocch'io credo che l'alta letizia che il tuo parlar mi infonde, signor mio, ov ogni ben si termina e si inizia, per te si veggia come la veggio, grata me più, e anche questo caro perché il discerni rimirando in Dio. Fatto mai lieto, e così mi fa chiaro, poiché parlando a dubitar m'è mosso, come uscir può di dolce seme amaro. Questo io a lui, ed egli a me. S'io posso mostrarti un vero, a quel che tu dimandi terrai il viso come tieni il dosso. Lo ben che tutto il regno che tu scandi volge e contenta, fa esser virtute sua provvidenza in questi corpi grandi. E non pur le nature provvedute sono nella mente che da sé perfetta, ma esse insieme con la lor salute. Perché quantunque questo arco saetta, disposto cade a provveduto fine, sì come cocca in suo segno diretta. Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine producerebbe sì li suoi effetti, che non sarebbe arti ma ruine, e ciò esser non può, se gli intelletti che muovono queste stelle non son manchi, e manco il primo che non li ha perfetti. Fu tu che questo ver più ti s'imbianchi? Ed io, non già, perché impossibil veggio che la natura in quel che uopo stanchi. Ond'egli ancora, or di, sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive? Sì, risposi io, e qui ragion non cheggio. E può egli esser, se giù non si vive diversamente per diversi uffici? No, se il maestro vostro ben vi scrive. Si venne deducendo insino a quinci. Poscia conchiuse. Dunque, esser diverse convien de vostri affetti le radici, perché un nasce Solone, ed altro Serse, altro Melchisedec, ed altro quello che volando per l'aere il figlio perse. La circular natura, che è suggello alla cera mortal, fa ben su arte, ma non distingue l'un dall'altro stello. Quinci divien che Esaù si diparte per seme da Jacob, e vien Quirino da sì vil padre che si rende a Marte. Natura generata, il suo cammino simil farebbe sempre a generanti, se non vincesse il provveder divino. Or, quel che t'era dietro, t'è davanti, ma perché sappi che di te mi giova, un corollario voglio che t'ammanti. Sempre natura, se fortuna trova discorde a sé, come ogni altra semente fuor di sua region, fa mala prova. E se il mondo laggiù ponesse mente al fondamento che natura pone, seguendo lui avria buona la gente. Ma voi torcete alla religione, tal che fu nato a cingersi la spada, e fate re di tal che da sermone, onde la traccia vostra è fuor di strada. Fine del canto 8.